Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, bentrovati all'appuntamento del sabato con Hashtag Autotrasporti, news e aggiornamenti in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Apriamo anche questo sabato con la Sicilia, con il blocco della A19 che continua a spezzare in due l'isola. La Protezione Civile ha completato la relazione tecnica sulla frana che ha provocato il cedimento del viadotto Himera. Si tratta dell'atto propedeutico alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo. La questione è all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri in programma lunedì. Dopodomani quindi il provvedimento dovrebbe essere firmato e a quel punto, con una procedura di urgenza, potranno scattare gli interventi per la realizzazione della bretella, che consentirà di aggirare il tratto interrotto della Palermo-Catania, e contemporaneamente per la messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico. Intanto in Sicilia cresce la tensione per le conseguenze provocate dall'interruzione della A19. Alcune associazioni territoriali degli autotrasportatori minacciano un blocco nell'isola dal 25 al 29 maggio. Alla Commissione Trasporti del Parlamento europeo, nei giorni scorsi si sono svolte due audizioni dedicate al tema del dumping sociale del cabotaggio illegale. Il commissario Violetta Bulc ha annunciato, tra l'altro, un aggiornamento del libro bianco dei trasporti e presentato un pacchetto di novità relative al trasporto stradale. Al nostro microfono l'europarlamentare Isabella De Monte, componente della Commissione Trasporti. La commissaria ha anticipato per il prossimo anno l'adozione di un pacchetto stradale che comprenda anche il tema del dumping sociale. Questo perché da più parti e non solo dall'Italia è stata manifestata la necessità che si abbia una disciplina, diciamo, più di controllo, di regolamentazione del cabotaggio illegale, ma in generale di tutte quelle situazioni che oggi comportano non una reale libera concorrenza, ma una scelta di insediare un'attività in un paese a seconda della convenienza. Quindi questo è un po' il nodo cruciale. È chiaro, sono stati affrontati anche tanti altri argomenti ed è stata sottilmente annunciata la decisione anche della commissione, una decisione prossima in merito alla legge tedesca, in particolare che riguarda il salario minimo, perché questo molto probabilmente sarà fracassato, chiamiamolo in questi termini, che comunque ostacola la libera concorrenza. Dopo una lunga trattativa è stato firmato il contratto che regola i rapporti di lavoro degli addetti al settore del trasporto merci e della logistica soci di cooperative. Un risultato a suo modo storico al quale si è giunti dopo anni all'insegna della deregulation che, sottolineano associazioni di categorie e sindacati, ha alterato il mercato e favorito varie forme di illegalità. Roberto Bartolini di Coop CST. Necessaria per rimanere sul mercato, le operative serie, strutturate, una fase estremamente delicata dove basta leggere i giornali, ogni tanto si scopre qualche azienda cosiddetta cooperativa che, sfruttando lavoro nero, sfruttando caporalato sul mercato, abbassa il costo a un livello insopportabile per la gestione di un contratto. E questo invece consente di applicare il contratto sicuramente tramite forme di flessibilità che i lavoratori soci già conoscono e che hanno sicuramente apprezzato, perché da una parte c'è un sacrificio economico che i soci fanno attraverso una propria partecipazione alle scelte della cooperativa, e quindi si aumenta il salario, si mette a disposizione da parte dei soci delle forme di flessibilità che consentono di contenere il costo. Il passaggio delle competenze relative alla tenuta degli albi territoriali dalle province alla motorizzazione è stato il tema al centro dell'incontro che si è svolto mercoledì al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A sollecitarlo erano state le organizzazioni di categoria sull'onda di una serie di dubbi interpretativi della norma e di fronte ad un allungamento dei tempi delle revisioni dei mezzi con conseguenze negative per le aziende. L'altro ieri il Ministero ha diffuso una nuova direttiva con la quale viene consentito a personale in forza alle province di affiancare gli addetti alle revisioni. L'obiettivo è quello appunto di accelerare i tempi e contemporaneamente formare nuovo personale da impiegare a livello territoriale in queste operazioni. L'appuntamento del sabato con Hashtag Autotrasporti termina qui. Per parlare di autotrasporto noi ci risentiamo lunedì sera alle 21.45 e poi mercoledì alle 13.45 all'interno di Effetto Giorno. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.